50 domande su Gesù. Come avvenne la morte di Gesù? Gesù morì inchiodato a una croce il giorno 14 di Nisan, venerdì 7 aprile dell'anno 30. Così si può dedurre dall'analisi critica delle relazioni evangeliche, in contrasto con le notizie sulla sua morte riportate nel Talmud. La crocifissione era una pena di morte che i romani applicavano agli schiavi e ai ribelli. Era considerata infamante, per cui non poteva essere inflitta a un cittadino romano, ma soltanto agli stranieri. Secondo numerose testimonianze, da quando l'autorità romana si insediò nel territorio di Israele, questa pena è stata applicata spesso. Il procuratore di Siria, Quintilio Varo, fece crocifiggere nell'anno 4 a.C. 2000 giudei per rappresaglia in seguito ad una sollevazione. Su come avvenne la morte di Gesù sono di indubbio interesse le scoperte realizzate nella necropoli di Givat a Miftar, appena fuori di Gerusalemme, dove è stata rinvenuta la sepoltura di un uomo che fu crocifisso nella prima metà del primo secolo d.C., cioè di un contemporaneo di Gesù. L'iscrizione sepolcrale permette di conoscere il suo nome. Giovanni, figlio di Agol, misurerebbe 1,70 di statura e avrebbe avuto 25 anni quando morì. Non c'è dubbio che si tratta di un crocifisso, giacché i becchini non staccarono il chiodo conficcato ad uno dei suoi piedi, al quale era rimasto attaccato anche un frammento del legno. Questo ha permesso di accertare che la croce era di legno di olivo. Sembra inoltre che nella croce ci fosse una leggera sporgenza fra le gambe del condannato, che gli sarebbe servita per appoggiarvisi come a una sedia, in modo che egli potesse recuperare le forze, per cui la sua agonia finiva col risultare più lunga. Ciò infatti gli evitava la morte immediata per asfissia, che invece si sarebbe verificata se tutto il peso del corpo fosse rimasto appeso alle sole braccia senza altro a cui appoggiarsi. I resti trovati mostrano che le ossa delle mani non erano trapassate né rotte. Per questo la cosa più probabile è che le braccia di quell'uomo fossero state semplicemente legate con forza alla traversa della croce, a differenza di Gesù, le cui mani furono invece trapassate dai chiodi. I piedi del condannato, invece, erano stati attraversati dal chiodo grosso e lungo che è stato trovato attaccato al morto. Per la posizione in cui è stato rinvenuto, si potrebbe pensare che lo stesso chiodo avrebbe attraversato i due piedi nel seguente modo. Le gambe sarebbero state appena divaricate con il palo in mezzo, la parte sinistra della caviglia destra e la parte destra della caviglia sinistra sarebbero state appoggiate ai lati del palo trasversale. Il lungo chiodo avrebbe attraversato prima la caviglia di un piede, quindi il palo di legno e infine la caviglia dell'altro piede. Il supplizio era tale che Cicerone riteneva la crocifissione come il maggior supplizio, il più crudele e terribile supplizio, il peggiore e l'ultimo dei supplizi che si infligge agli schiavi. Tuttavia, per avvicinarsi alla realtà di quello che comportò a Gesù la morte sulla croce, non basta soffermarsi soltanto sui dolorosi e tragici dettagli che la storia è capace di illustrare, giacché la realtà più profonda è che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, come afferma la prima lettera ai Corinzi. Nella sua donazione generosa della morte in croce, egli manifesta la grandezza dell'amore di Dio verso ogni essere umano. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, essendo noi peccatori, Cristo morì per noi.